manca il tuo calore. Padre, mi manca il tuo abbraccio. Io vengo a te, Signore, cercando il volto tuo. Nel nome di Gesù, abbi pietà di me. Ho bisogno di te, ho bisogno di te. Prendimi nelle tue mani, voglio star con te. Ho bisogno di te, ho bisogno di te. Prendimi nelle tue mani, voglio star con te, solo con te. Parola, ho bisogno di te, ho bisogno di te. Prendimi nelle tue mani, voglio star con te. Ho bisogno di te, ho bisogno di te. Prendimi nelle tue mani, voglio star con te, ho bisogno di te, ho bisogno di te. Prendimi nelle tue mani, voglio star con te, ho bisogno di te. Bisogno di te, prendimi nelle tue mani, voglio star con te.